10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. È Natale, se ne giù. Calassato ne chi sta. Più disceso, più s'aiuto. Quando arraggi in da sti panna. Perché poche lì speranza. La teniva l'anno prima soffro nudo in davanza. E chi tene più cazzimma soffro nudo in delleggio. La mantena ne putiente. Soffro nudo in dolietta. Coppa e faccia tanta gente. Coppa tutta sti mazzate. Contra chi con l'uguaglianza, contra chi ha sempre pavate, se torce rindavanza. Come faccio questa ignoranza, che governo un paese, chi fatica e chi è tu sangue. Senza niente fino a mese, e mo' chi sto capodanno. Vada spietta, amico mio, quanta gente senza braccia, quanta porta mezza via. Quanta femmina stuprata, quanta droga, quanta danna, quanta vita rovinata. Con l'augurio e capodanno che può fare un sammacino. E spaghetti e frutta e mare. Che ci stai che avanza piena. Tu ti scorda tutto male. Stammo insieme che parienta, festeggiamo capodanno. Circa non pensa più a niente che Natale sta arrivando. E aspettiamo quattramenti, avevo cose rinda sac. Per ogni anno puntualmente. Ubiamma rinde pac, ben più là. E un giuranta, guarda un guarda contra chi con l'uguaglianza, contra chi ha sempre papate, se torce l'indavanza. Come faccio sta ignorante, che governa lo paese, e chi fatica e chi è tuo sangue. Senza niente fino a mese. Senza niente fino a mese. Senza niente fino a mese. Senza niente fino a mese.